sogni volano. Poi che tristezza quando torna la realtà. Volano, i giorni volano, mentre la notte è lunga e non ti passa mai. Basta più questa sera e non ti serve fingere ancora. I tuoi pensieri sono lontani, volano nel cielo, liberi gabbiani. E non ti basta più questo volo, quando finisce sei sempre più solo. Quante illusioni nelle tue mani, stringile più forte, tanto è già domani. E non ti basta più questo volo, quando finisce sei sempre più solo. Quante illusioni nelle tue mani. Cosa c'è? Stanotte pensi a te, ti guardi nello specchio e piangi. Cosa c'è? Basta vivere un'ora, ti senti vivo, respiri ancora. Cerca il coraggio nelle tue mani, cambia la tua vita, cambia da domani. E non ti basta più questo volo, quando finisce sei sempre più solo. In fondo un uomo non ha le ali, non provarci ancora, siamo tutti uguali. Solo in fondo un uomo non ha le ali, non provarci ancora, siamo tutti uguali. Mi va. I miei 16 anni, la fuga da casa, i tanti problemi, l'età. Mia madre diceva, ma questo ragazzo che fa? Io non mi arrendevo mai, testardo tanto che vivevo sempre in mezzo ai guai. Io avevo i sogni miei e ci credevo, e poi non mi arrendevo mai. Un giorno d'estate perdevo un amico. Ricordo che viene, che va. La gente diceva, le moto veloci si sa. La mia prima donna diceva che amare significa dire mai no. Li aveva già letti i libri d'amore, io no. Io non mi arrendevo mai, testardo tanto che vivevo sempre in mezzo ai guai. Io avevo i sogni miei e ci credevo, e poi non mi arrendevo mai, mai, mai, mai, mai, mai. Io non mi arrendevo mai, testardo tanto che vivevo sempre in mezzo ai guai. Oh, oh, io avevo i sogni miei e ci credevo, e poi non mi arrendevo mai, mai, mai, mai. Solo un momento per poi ricordare che sei stata mia e che presto tornerai. Tu non sai quando parlo di te, dico a tutti che sei uguale a me e mi prendono in giro dicendo non ragioni più per lei. Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi, ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. È la storia di noi due, incredibile lo so, pensare che non ci credevo e già ti amo. Forte alle braccia di lui, stai sicuro non ti ho mai tradito, mentre invece penserai alla storia di noi due, troppo breve sì però, però non è finita qui, sono sicuro. È la storia di noi due, di una notte ho girato tutto il mondo, ma non saprei dire ma quando canto io sono sincero più che mai, sono contento soltanto in mezzo a tutti voi. E poi non vendo fantasia, ma momenti della vita mia, e vorrei sentirmi libero di dare un bacio, regalare un fiore, mi farei le foto proprio come quando andavo in città con le suore. Forse troverò una donna che mi amerà, di un amore che non pensa a tutto ciò che avrà, e un amico che mi ascolta quando sono triste o voglia di parlare. Ma quando canto mi scordo di tutti questi guai, e quando canto io vivo in mezzo a tutti voi, perché di questa vita mia non voglio farne solamente un disco e via. Ma tra mille delusioni ho cercato sempre di sentirmi su, ma quando canto io sono sincero più che mai, sono contento soltanto in mezzo a tutti voi. E poi non vendo fantasia, pensando solamente a fare un disco a pie, e per una volta ancora resterà soltanto questa mia illusione. E non so se ho fatto bene andare mia canzone, e sarà già stato detto tante volte, ma per ognuno c'è una propria sola verità, e tra mille delusioni cercherò di nuovo di sentirmi su. Se chiudi gli occhi come me, quando guardi intorno a te per capire, se ti sei chiesta già perché, prova a chiederti per chi vuoi fuggire, e accendi il cuore. Se qui non c'è poesia, ci vuole amore, ma non buttarlo via. Ti sembra facile cambiare il mondo e farlo come vuoi, ma il tempo di capire che non puoi, ed è già il mondo che ha cambiato noi. Ti sembra facile passare sola come me, dimmi che cos'altro c'è da capire, e inventa un cuore dove non c'è poesia, ci vuole amore.